Conto alla rovescia. L'Italia nello spazio. Oggi, 12 aprile 1961, nell'Unione Sovietica è stata messa in orbita attorno alla Terra la prima nave Sputnik spaziale nel mondo, Vostok, con un uomo a bordo. Il pilota cosmonauta della nave spaziale Vostok è un cittadino dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il maggiore d'aviazione Yuri Gagarin. Il maggiore Yuri Gagarin, il primo cosmonauta del mondo, è rientrato nella capitale dell'Unione Sovietica. Ad attenderlo all'aeroporto di Mosca c'è Khrushchev in persona. Il rituale abbraccio del Presidente del Consiglio al vincitore dello spazio è salutato da un interminabile applauso. Il 12 aprile del 1961, l'avete dunque sentito, magari l'avete anche ricordato, Yuri Gagarin diventa il primo uomo a volare nello spazio. Emozione straordinaria in tutto il mondo. L'impresa peraltro sembra ribadire la superiorità sovietica nel campo della neonata esplorazione spaziale, ribadire perché il 4 ottobre del 57 la Russia aveva spinto in orbita lo Sputnik. In realtà il successo di Gagarin scatena una vera e propria corsa. Il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, reagisce con una promessa. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning. Landing a man on the moon, quindi portare un uomo sulla Luna. La grande sfida è lanciata, la promessa sarà rispettata. Kennedy in realtà non avrà modo di vederla, ma insomma, la grande storia dell'esplorazione spaziale, come sapete, si intreccia strettamente a quella della Guerra Fredda. Noi ora però lasciamo questa linea, questo filone, perché vogliamo parlare invece dell'Italia, del nostro paese e del ruolo che gli scienziati e gli ingegneri, soprattutto, ma non solamente, hanno avuto in questi oltre 40 anni. Per raccontarvela, io sono Gigi Donelli e vi saluto, ma ho chiesto aiuto a un collega giornalista che è un grande esperto di spazio, molti di voi lo conoscono, lo leggono regolarmente, Giovanni Caprara, capo della redazione scientifica del Corriere della Sera. Buonasera Giovanni. Buonasera. Ecco, dicevo che molti di voi avranno avuto anche occasione di leggerlo nei suoi libri, nelle storie. Avevo bisogno di qualcuno che mi potesse sostenere in un percorso che, diciamo, è molto lungo e molto affascinante. Ma la prima domanda che vorrei farti, Giovanni, è dedicare tempo per parlare del ruolo italiano in questo ambito non è in qualche modo un po' una forzatura della storia? L'Italia ha una propria storia spaziale? Ha una sua storia spaziale che è molto importante, perché dopo la partenza di Yuri Gagarin l'Italia ha capito che poteva anch'essa essere in qualche modo protagonista, se non altro sul piano scientifico, che naturalmente era quello che per primo attirava sia i ricercatori che tutti coloro che guardavano allo spazio, perché era un luogo da esplorare. Ecco, il piano scientifico, questo diciamo che pone subito una prima distinzione. Americani e sovietici si sfidano su un campo prettamente militare in primo luogo. La storia dell'esplorazione spaziale in Italia nasce dalla scienza, nasce da Amaldi, nasce anche dalle rovine di un'Italia che naturalmente è un paese sconfitto e che è stato sconfitto anche prima della sconfitta bellica dalle leggi razziali che hanno spinto lontano molti ricercatori. Sì, però in quegli anni c'era uno spirito estremamente bello, che guardava il futuro, che cercava di andare oltre le macerie materiali e anche purtroppo spirituali di quel momento. E quindi ci sono stati uomini come appunto Edoardo Amaldi e Luigi Broglio che a Roma cercavano qualche cosa che potesse far emergere di nuovo l'Italia come protagonista nella scienza, e quindi hanno cercato di sfruttare quel poco che avevano a disposizione e anche la Guerra Fredda in un certo senso per concretizzare questo loro sogno. Ecco, Amaldi con Bernardini fece nascere il Centro di Studio per la Fisica Nucleare e le Particelle Elementari, studiavano i raggi cosmici e le particelle che venivano chiamate le particelle strane. Per andare a prenderle ci volevano dei palloni sonda, bisognava insomma andarsele a cercare. Nell'estate del 52 vengono lanciati alcuni palloni palloni da Cagliari, Elmas, quindi l'aeroporto, e insomma al termine della missione vengono recuperati dalle corvette della Marina. Quindi nonostante tutte le difficoltà ci si rimette subito in movimento. Sì, e si cerca anche di giocare con una visione molto ampia, europea innanzitutto. Ricordiamo che mentre Edoardo Amaldi guardava questa dimensione spaziale, in realtà si impegnava ancora di più nella ricerca fisica. Lui era il braccio destro di Enrico Fermi e quindi diventava immediatamente un protagonista della nuova Europea della Scienza. È uno dei protagonisti della nascita del CERN a Ginevra. Contemporaneamente propone la costruzione in Europa di un satellite europeo per la scienza, naturalmente. E quindi, seppure lentamente, l'Italia diventa protagonista su questi due fronti della ricerca scientifica. Ci sono appunto delle figure, naturalmente, ce ne sono molte, forse troppo per lo spazio che abbiamo a disposizione. Una di queste è sicuramente questo signore. Congressi e conferenze, tappe d'obbligo nella vita ufficiale, ma questa tenuta a Roma ha un relatore d'eccezione, il progettista e direttore del lancio del primo missile spaziale italiano, Luigi Broglio. La nostra Cape Canaveral ha un nome quasi impronunciabile, Herbas de Fogo, ma non è escluso, visto il successo dell'esperimento, che proprio da qui l'uomo possa un giorno mettere le ali per il grande salto nel buio dell'universo. Anno 1961, siamo diciamo già dentro un progetto iniziato nel 1956 che deve ancora arrivare al suo obiettivo. Insomma, c'è molto l'elemento del sogno in questo obiettivo sulla cronaca. Era il febbraio del 61, l'idea di una base, l'idea di avere dei razzi propri. Insomma, forse non è proprio andata così, ma sicuramente questo ci porta al progetto San Marco. Certo, e per Herbas de Fogo è un punto di riferimento anche per l'Europa, perché mentre Luigi Broglio cercava di costruire il nostro spazio italiano, l'Europa aveva anch'essa bisogno di fare altrettanto in una scala più ampia, e Herbas de Fogo diventa la prima base dalla quale si lanciano i razzi sonda per indagare l'atmosfera, assolutamente poco conosciuta all'epoca. Si faceva questo sforzo con l'aiuto anche della Guerra Fredda, come dicevo, perché Broglio era pure un generale dell'aeronautica militare e aveva la possibilità nell'ambito della NATO di avere certi rapporti, per cui per esempio aveva facilità ad avere certi mezzi, alcuni razzi, che ovviamente erano strumenti preziosi per iniziare queste indagini dell'alta atmosfera, che erano molto importanti non solo per la scienza fisica, ma anche per esempio per la meteorologia, l'aviazione, e quindi c'era una scienza orientata a qualcosa di molto applicato. Luigi Broglio, veneto, di Mestre, classe 1911, scomparso a 90 anni nel 2001. Tra le sue note lunghissime lo leggiamo: fondatore della Scuola di Ingegneria Aerospaziale all'Università degli Studi di Roma, naturalmente ideatore del progetto San Marco, una figura carismatica, un capo, per alcuni anche troppo capo, ancora a distanza di anni, insomma, la fermezza del suo profilo fa discutere. La sua caratteristica era quella di avere innanzitutto un sogno che voleva realizzare ed era determinato, per cui forse anche per quel carattere militare che ha sviluppato nella sua seconda anima, era assolutamente impegnato e non ammetteva distrazioni, diciamo così. Talvolta appunto attirandosi delle critiche, perché questo è stato un bene ma anche un male, perché io credo che in quei momenti estremamente difficili, se non ci fosse stato un uomo come lui, che magari escludeva anche alcune possibilità, non saremmo riusciti a costruire una base spaziale, la prima del mondo in oceano, e a lanciare dei satelliti, non soltanto i nostri satelliti scientifici. Una base che, lo ricordiamo, è stata di fatto costruita e poi ampliata a largo nell'Oceano Indiano. Sì, era all'equatore, di fronte alle coste del Kenya, ed era un'idea molto interessante perché all'epoca anche gli americani avevano guardato a questa possibilità, addirittura prima ancora di andare a Cape Canaveral, perché immaginavano di lanciare grandi razzi e quindi questi ponevano grandi pericoli, però poi abbandonarono l'idea. Invece Broglio riuscì con molta capacità anche imprenditoriale a recuperare delle piattaforme. Una di queste era stata addirittura utilizzata in Vietnam, era il pontile dalla quale venivano lanciati i razzi. Poi attraverso l'ENI riuscì ad ottenere un'altra piattaforma sulla quale costruì il centro di controllo, e così nacque questa base spaziale all'equatore dalla quale noi abbiamo lanciato 5 satelliti. Ma la cosa interessante è che l'aprì immediatamente a tutti coloro che potevano essere interessati allo studio dell'atmosfera intorno all'equatore. Insomma, Broglio, una figura centrale, una figura carismatica nella storia dello spazio italiano. Aveva fondamentalmente due scopi. Il primo, quello di provare e assaggiare la preparazione del nostro personale, del personale italiano, alle operazioni di lancio e di poligono. Il secondo scopo era quello di qualificare in modo definitivo il satellite stesso, cioè la strumentazione del satellite, che finora era stata soltanto provata in lanci suborbitali. Questo significa, in altre parole, che l'Italia è la sola nazione, dopo la Russia e gli Stati Uniti, a possedere personale specializzato in tutti i diversi e svariati settori, o almeno in quasi tutti i diversi e svariati settori della ricerca spaziale. Ecco, questo era Luigi Broglio, da lui ripartiamo. Ci ha raggiunto nel frattempo Enrico Saggese, che è presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ingegnere, è stato alla guida di Telespazio. Presidente, grazie di essere con noi. Allora, parliamo subito di Broglio. Lei lo ha conosciuto, quale ricordo ci porta di lui? Ma diciamo che era una persona davvero fantastica per molti aspetti e difficile per molti altri, probabilmente ne avete già parlato. Il Luigi Broglio ha unito due spiriti insieme, lo spirito dell'università e lo spirito militare antesignano. Quindi lui era un generale, aveva un rapporto estremamente buono con la NASA e quindi mise a frutto queste due caratteristiche, unì la cultura diciamo del fare, la cultura del realizzare le cose con quella dell'insegnare, quindi fu un antesignano nello sviluppo di questi due aspetti. Ecco, Broglio era un uomo d'azione, quali furono i suoi rapporti con il mondo politico in cui visse? Ma diciamo che furono ambivalenti, come dicevo gli aspetti positivi furono quello di unire l'università con la parte militare, ma non riuscì mai a riunire insieme anche lo spirito industriale. Quindi lui nella sua fine della sua carriera addirittura entrò nel consiglio di amministrazione della neoformata Agenzia Spaziale Italiana nell'88, subito dopo l'ultimo lancio del San Marco, e rimase 5 anni. Aveva il sogno, aveva l'ambizione di creare anche una realtà industriale insieme a questa della base di lancio e insieme al gruppo che aveva creato nell'Università di Roma 1, nella scuola aerospaziale, la prima scuola in Italia di cultura aerospaziale. Però in questo non riuscì e se ne rammaricò molto, e uscì dall'agenzia spaziale all'età di 81 anni, senza aver realizzato quell'ultimo pezzettino che era la messa insieme della cultura industriale. Ecco, una battuta a proposito dell'età: ho letto che lei l'ha, come dire, frequentato ancora ben oltre gli 80 anni e ha avuto modo di misurare anche la sua lucidità e la sua capacità di calcolo. Sì, lui aveva una lucidità incredibile, una longevità enorme, lui vantava sempre una mamma molto anziana, molto più anziana di lui. Lui era un cattolico credente, ma una persona lucidissima, faceva i calcoli ancora a mente, una persona estremamente brillante. E quindi era anche piacevole parlare con lui, perché su un pezzo di carta sviluppava i suoi concetti e provava anche a risolvere problemi ben oltre appunto gli 80 anni. Ecco, San Marco, 15 dicembre 64, dunque il lancio, sembra in qualche modo l'inizio di una stagione formidabile. In realtà le cose non sono andate in questi termini, già dal 67 si comincia a faticare intorno a questo progetto italiano. Che cosa accade? Ma diciamo che il progetto San Marco è un progetto di sistema, quindi vede come uso di lanciatore lo scout americano, e l'obiettivo che aveva lui era quello di creare uno scout potenziato italiano, quello che adesso si chiama Vega, il lanciatore italiano. Ecco, lui non considerava che i tempi italiani, ma anche i tempi della ricerca, i tempi di formare il personale per creare da zero praticamente un lanciatore erano ben superiori a quelli che lui immaginava nel mondo americano. Insomma, Broglio sognava un lanciatore già negli anni 60, bisogna pur dire che Vega, noi speriamo tutti, potrà finalmente vedere la luce il lancio nel 2010. Quindi cos'era forse il suo limite? Era troppo avanti per i suoi tempi? Era troppo entusiasta, forse. Bisogna fare il conto anche con l'industria, con i suoi tempi, con i tempi appunto di formazione e con il fatto che questo tipo di cultura dei lanciatori in Italia non esisteva e quindi la formazione ha richiesto proprio molti molti anni. Ma Enrico, ti faccio anche io una domanda. Quella sua idea di voler percorrere una strada intermedia, quello di fare lo scout in Italia, quindi era un modo nuovo oppure un modo vecchio di ritornare alle vecchie produzioni su licenza che avevano caratterizzato il mondo aeronautico? Sì, forse un po' era quello, cioè il concetto base era quello della licenza, invece l'aspettativa dell'industria è sempre stata quella dell'innovazione, quello di creare dal nuovo, quello di avere un prodotto da vendere piuttosto che costruire. Tu sai benissimo che il mercato dei lanciatori non è un mercato vastissimo, non ha una dimensione tale da giustificare diciamo grossi ritmi di produzione, è più prototipale, è più una cosa da raffinati diciamo artefici del piccolo, dell'attenzione, dell'ottimizzazione e quindi chiaramente non della produzione di massa. E purtroppo i concetti relativi alle licenze di produzione si applicano solo ai grandi mercati e non ai mercati di nicchia. Presidente, in conclusione le chiedo, oggi questo rapporto, diciamo, che Broglio racconta così complesso tra la politica, l'industria e chi opera quotidianamente nello spazio, trasferito 50 anni dopo, com'è? È cambiato tutto? Ma forse non è cambiato tutto, forse è cambiato molto poco, nel senso che l'ambiente è sempre quello e quindi diciamo che in qualche modo abbiamo sempre bisogno di grandi uomini che trascinino gli altri, che portino avanti delle idee, magari anche al limite un po' illusorie, ma sicuramente capaci di grandi sogni. Non va avanti il mondo soltanto sulla razionalità, c'è bisogno anche dell'immaginazione e della volontà di raggiungere traguardi che all'inizio possono sembrare irraggiungibili. Grazie Presidente, grazie di essere stato con noi. Continuiamo dunque, la figura di Broglio naturalmente è centrale in questo racconto, ma non c'è solo Broglio. Allora, con Giovanni Caprara vorrei chiedergli lo sforzo in 4 minuti di dirci quali altre figure vanno assolutamente segnalate negli albori e nello sviluppo della storia italiana nello spazio. Ma sicuramente un altro personaggio che emerge nel nord è il professor Giuseppe Colombo dell'Università di Padova, il quale agli inizi degli anni 60 va negli Stati Uniti allo Smithsonian Observatory di Boston e inizia un'attività estremamente interessante, perché lui era uno specialista dell'astronomia, un meccanico celeste, quello che ha scoperto gli esatti movimenti di Mercurio, ma già a quell'epoca, collaborando con la NASA, riusciva a mettere a fuoco un'idea che poi con il tempo il piano spaziale nazionale prima e l'agenzia spaziale italiana poi concretizzeranno, cioè il satellite a filo, questa stranissima idea tutta italiana che purtroppo è stata interrotta ma che ha sicuramente ancora un futuro per le grandi costruzioni in orbita terrestre. Su questa vicenda peraltro c'è ancora una discussione italo-americana sull'esito non fortunato appunto della messa in orbita, ma sicuramente è un altro grande capitolo. Colombo dunque senz'altro. Poi nel campo della microgravità c'è una figura come Luigi Napolitano che di fatto anticipa dei tempi che oggi sono assolutamente attuali, visto che andiamo a vivere nello spazio. Esatto, perché la corsa allo spazio ha portato alla costruzione anche dei grandi laboratori abitati e quindi si cominciava a immaginare come poter sfruttare il quarto ambiente, come lo stesso Napolitano ha chiamato lo spazio extra atmosferico. quarto ambiente nel quale si poteva, sfruttando l'assenza di gravità, realizzare cose che erano impossibili da ottenere sulla Terra proprio per il disturbo della forza gravitazionale. Ecco, Napolitano è stato un pioniere di queste ricerche perché lui lavorò su uno strano effetto chiamato effetto Marangoni, scoperto nell'Ottocento da uno scienziato appunto italiano, e che si è visto che poteva essere una chiave importante per capire come sfruttare l'assenza di gravità, perché appunto senza di essa i fenomeni vengono sconvolti della fisica. Ma per riuscire a padroneggiare questa condizione strana bisognava governare questo fenomeno che aveva a che fare con lo spostamento dei liquidi. Ecco, in questa corsa rapidissima negli anni 60 siamo arrivati alla fine del decennio, lo avete sentito, è un piccolo passo per l'uomo, dice il primo uomo a raggiungere il suolo lunare, Armstrong. Insomma, gli anni 60 volgono al termine, gli Stati Uniti di fatto conquistano la Luna e anche l'Italia si prepara alle nuove sfide che ci portano nel vivere per tempi prolungati nello spazio e più precisamente per adesso nella microgravità di cui appunto ci ha parlato Giovanni Caprara, che ringrazio molto di essere stato qui con noi. Così si chiude il primo dei tre appuntamenti che Radio 24 dedica alla storia dello spazio italiano. Vi ricordo solamente che tutti insieme sono raccolti nello spazio di Conta la Rovescia sul sito di Radio 24. 3, 2, 1. We have ignition.